Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni. Ma è accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate il miele o api, ma sono altri che lo godono. Iniziare non vuol dire che dovrai finire. Non mi dire che tu sai predire l'avvenire. L'universo è già nero, non si può annerire. Stupidi quando ci iniziamo ad avvilire. Eppure quanta merda devi odorare. Un mare, quante piccole bugie devi aderire. Al fine di adorare nuovi soli, appassiti di luce. Manichini per chi cuce, vestiti da ballerine. Fate ridere, belle rime. Ma quando è che inizi a scrivere? Anche quando incidi è difficile decidere di uccidere con le parole, anche se fa omicidi. Difficile che un suono come questo possa vivere se non lo vedi come una cosa sola e lo dividi. Ridi, forza, ridi. Ma c'è chi quando guarda il cielo vede pioggia di meteoriti. Cerca nella tua testa quella follia senza ipocrisia, ne richiamo della foresta. Densa questa tendenza, questa mania di supremazia. Qui nessuno ne vive senza. Morti siamo rinati nel tempo di una sigaretta. Siamo tornati, c'era la messa. Essere belli come il sole non serve se non brilli più di luce riflessa. Perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dall'amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi. Luce tu curi i mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore. Ti arrampichi all'orizzonte, fa scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza è nella tua voce. È lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Che vedi un sole ma chiuso dentro le stanze della città. Tanto per quanta fretta hanno le persone qua. Basterà pure un sole fatto a metà. Troppa la depressione, attento prima che ti butti. Meglio che smetti, per carità. Forse ultimamente è drogato anche l'amore. Davanti a tutti si fa. Case, chiusi in case, eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità. Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità. Dai, come vivi senza colpevolezza se hai consapevolezza della realtà? Mike, dammi una base che io ci scrivo un'altezza, li colpirò in profondità. Scappo nel bene nuoto tra le balene, tappo il naso. In verità che nota ha la libertà. Tanto viene come viene questa vita, si sa. Poi con l'età supererà la superficialità. Meglio non vivere una super felicità se ti controllano come un computer con facilità. I nostri veri padri, chi ci li ridà? Meglio nulla che ereditare aridità. Urla, non è musica per tuo scolare. Nella fase del problema cardiovascolare questa musica ci fa scolare. La metrica è la verità e la tua non merita rapidità. Se le idee non necessitano avidità ed un sole non è certo avido di luminosità. Sembriamo frutto che attentati dall'aldilà, quasi tutti modificati nel DNA. Dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dall'amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi. Luce tu curi i mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore. Ti arrampichi all'orizzonte, fa scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza è nella tua voce. È lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Iniziare non vuol dire che dovrai finire. Non mi dire che tu sai predire l'avvenire. Solo sangue scende, il cielo nero vinile. Mentre una biro collegata sputa la bile. E sognare non vuol dire che stai lì a dormire. Essere per strada non è stare in un cortile. In fondo noi siamo bravi a farci capire. Tu continui a guardare l'artista e non quante api. La usare puntine, puntare alle rime. Che è come uccidere però non essere mai condannabile. Fino alla fine, per questo fino alla fine. La musica sarà incompiabile, noi gas infiammabile. Fuoco oltre le linee, cosa divide? Un confine, cosa deprime? Le nostre vite è un gioco, con due dischi potrà sembrare poco, ma ti porterà in un altro luogo. Dite quello che dite, viviamo come in una giungla di deficienti. Sempre più folta da quando la lista dei tuoi sogni è diventata più lunga. Qui la lista della spesa è più corta. Ride, la gente ride, non ascolta. Cercano una penombra che nasconda. Si alzano i gradi, la testa è sgombra. Ma è pronta per una protesta perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dalla amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi. Luce tu curi i mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore. Ti arrampichi all'orizzonte, fai scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza è nella tua voce. È lenta la luce a fretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Questo villaggio adagio si scioglie, non ne resterà uno stralcio. Squarcio tra nuvole, poi sbuca un raggio. Assumo coraggio per stare qua giù. Ghiaccio sui tetti di questo villaggio adagio si scioglie, non ne resterà uno stralcio.